Storielle d'auto. Solitudine. L'esasperazione nevrastenica del furibondo scatenamento del traffico intorno, quella rabbiosa macina, catastrofico incombere di selvaggi, camion, bestioni stritolatori, alle spalle incalzati da feroci occhiai ammiccati, e via, via, via, basta con questo inferno, alla periferia, alla campagna, all'aria pura, al silenzio. Non basta, centinaia, migliaia di chilometri ancora imperversano le belve. Via, via, via, i limiti del mondo abitato, oltre la campagna, più avanti ancora. Sì, nel deserto di sabbia, piatto, incontaminato, dove dall'epoca della creazione non è mai passata anima viva. Liberazione. A perdita d'occhio non vedere neanche un topino delle piramidi. Non c'è più bisogno, grazie a Dio, di lo specchio retrovisore. Finalmente lui o lei si ferma. Che solitudine, che pace. Con un sospiro di indicibile sollievo apre la portiera per discendere. Un ciclista che procede nello stesso senso va a sbatterci contro malamente.